Allora, questa è la lezione del 16 dicembre 2010, prima parte. Va bene. Allora, adesso molliamo lì la questione del linguaggio, perché ne abbiamo già parlato più che a sufficienza, cioè non è che la molliamo. Oggi cominciamo a introdurre la questione dell'immagine, cioè primo tentativo di riflettere sull'immagine come se sì, come è possibile. Le immagini come sistema, il sistema delle immagini come sistema di significanti. È possibile parlare delle immagini come sistema di significanti nello stesso modo in cui si parla degli elementi del linguaggio parlato come insieme di significanti? Allora vedremo che la questione è delicata. Forse non è impossibile, ma se vogliamo dirla in termini più tecnici, il problema che ci possiamo porre è possibile una semiotica dell'immagine, come è possibile una semiotica delle lingue naturali? La semiotica delle lingue naturali è la linguistica. Si studia la lingua o le lingue in quello che hanno di comune, se hanno qualcosa di comune, se non hanno niente di comune o quello che hanno, insomma, diciamo, si vede. Effettivamente la semiotica è nata così, è nata come tentativo di generalizzare la linguistica e quindi come studio delle modalità e dei processi attraverso cui si accoppiano dei suoni, delle stringhe di suoni, in modo da fargli significare qualcosa. Il linguaggio naturale funziona così. Il significato, ovviamente, il termine significato può essere applicato a livelli diversi, c'è un significato delle parole, c'è un significato delle frasi, c'è un significato delle frasi di frasi. Ogni parola che io sto dicendo adesso più o meno ha un significato, ma poi se voi connettete insieme, la frase, le frasi che io dico hanno un significato, l'insieme di frasi. Allora, bisogna cominciare con il notare che molte di queste tematiche, o perlomeno questa, diciamo, questa tematica dei linguaggi naturali, cioè dei meccanismi, dei dispositivi di significazione, cioè di accoppiamento dei significanti con significati nei linguaggi naturali, per noi, cioè sono, come dire, complicati dal fatto che la semiotica è una disciplina recente, è nata poco più di un secolo, insomma, o anche meno. Più o meno un secolo di vita, insomma, ma è nata in un momento in cui, oltre alla parola parlata, noi disponevamo, l'umanità disponeva già di sistemi di trascrizione della parola parlata su superfici, le varie scritture. Ora però, è vero che l'ambizione della semiotica dei linguaggi naturali è quella di prescindere dalla scrittura. Quando si parla di semiotica dei linguaggi, si parla di semiotica della lingua. È la lingua parlata che è il fenomeno primario che sta alla base. La scrittura è soltanto come dire, una tecnica per fissare su di un supporto ciò che non è fissabile di per sé come la parola parlata. La parola parlata prescindiamo dall'esistenza di questi congegni che adesso addirittura sono in grado di fissare anche la parola parlata, ma prima dell'apparizione di questi congegni che hanno poco più di 50-60 anni, la parola parlata era, vabbè, no, non è vero perché ne hanno già di più adesso questo modello qua, no, ma insomma i primi studi, il primo fonografo di Edison dei primi anni del Novecento, quindi effettivamente c'erano dei metodi anche molto complicati sono già aumentati, anche questi hanno circa un secolo di vita, insomma. Ma prima di questi la parola parlata non aveva un supporto su cui essere fissata, e quindi poteva trasmettere nello spazio e nel tempo, cioè il giorno dopo, due giorni dopo, una settimana dopo, un mese dopo, un anno dopo che la persona l'aveva, come dire, pronunciata, o spedendola, portando la mano, attaccandola al collo di un piccione viaggiatore, spedirla in un'altra città, in un'altra nazione, in un altro paese, eccetera. Quindi diciamo che espandono lo spazio nel tempo. Prima dell'apparizione dei dispositivi di registrazione della parola parlata, la scrittura è stato l'unico sistema, no, che consentiva di qui si pone un problema. E il problema è che la scrittura, cioè da questo punto di vista è vero che la scrittura è semplicemente un fenomeno secondario della oralità, cioè prima viene l'oralità, poi viene la scrittura. Però non è vero che la scrittura fa parte di un insieme di attività che non sono nate all'inizio, quando sono apparse per la prima volta, non intendevano trascrivere delle parole, ma intendevano fare un'altra cosa. Allora, detto in altri termini, la scrittura in realtà è parente della pittura, perché scrittura e pittura sono due diversi modi di costruire significati su di una superficie bidimensionale. Quando appare storicamente per la prima volta qualcosa che si può chiamare pittura, compare molto prima della scrittura, molto dopo certamente il linguaggio, perché noi siamo in dubbio se le specie di ominidi che ci hanno preceduto parlassero o no, ma comunque sicuramente Homo sapiens da quando c'è parla, quindi è almeno 250.000 anni a dir poco che si parla, ed è solo 5.000 anni che si scrive. I primi sistemi di scrittura compaiono indipendentemente nella valle del Nilo, nella valle del Tigri e dell'Eufrate e nella valle dello Yangtze in Cina, grosso modo attorno a un certo periodo, cioè circa 3.000 anni prima di Cristo, e poi si evolvono, eccetera. Mentre le prime immagini di cui noi abbiamo, le prime immagini tracciate sui muri, sulle pareti più o meno lisce di certe caverne, risalgono a un periodo compreso tra i 30 e i 40.000 anni fa. E sono le prime che ci sono giunte sino a noi, non possiamo escludere che ce ne fossero anche di precedenti. Comunque, sicuramente quelle che abbiamo noi sono di molto prima, quindi vuol dire che questo modo di prendere qualche materiale in grado di tracciare dei segni su di una superficie bidimensionale data in natura, cioè le rocce in genere sono, però ogni tanto capita che trovate una roccia bella liscia, e allora sì, qualcuno c'è scritto. Questo complica la cosa, perché nel momento in cui questa tecnica di tracciare dei segni su una superficie bidimensionale, che poi dopo la superficie bidimensionale, dopo un po', dopo molti, dopo un po', Molto probabilmente nello stesso periodo in cui nasce la scrittura si cominciano a diciamo, utilizzare invece che muri di caverne delle superfici ancora più lisce, per esempio le mura di una casa costruita, non c'era proprio l'intonaco ai tempi del digitale, però insomma in qualche modo c'erano dei muri o di pietra lisciata, resa più liscia artificialmente, no? Oppure con degli impasti, del fango, della malta, delle cose, insomma, per cui la superficie veniva più liscia. Quindi si è cominciato a scrivere, si è cominciato a tracciare dei segni su queste superfici qua. Evidentemente però i sistemi di segni, cioè la scrittura, diciamo, l'invenzione di sistemi grafici per simbolizzare o le intere parole parlate, scritture ideografiche o pittografiche, o i singoli suoni, per esempio le sillabe, scritture sillabiche, o per certe lingue particolari che possono utilizzare sistemi di questo tipo, scritture consonantiche, cioè scritture che in cui i segni indicano i suoni delle consonanti e non quelli delle vocali. Nelle lingue semitiche non è così importante come in quelle indo-europee indicare le vocali, perché le vocali non hanno, come dire, significato semantico, ma soltanto sintattico, cioè il campo semantico di un certo concetto nelle lingue semitiche, nell'arabo, nell'ebraico, eccetera, viene dato dalla sequenza delle consonanti. E basta. Le vocali aggiunte servono aggiunte tra una consonante e l'altra per poterle pronunciare, le consonanti da sole sono impronunciabili, cioè per fare degli sforzi, se non dico vada, allora se gli devo mettere delle vocali, il metodo per poter pronunciare, però queste vocali sono nelle lingue semitiche, servono per stabilire se quella certa sequenza di consonanti è un sostantivo, un aggettivo, un verbo, ma sempre relativo a quel certo concetto. Sarebbe come se per esempio nella lingua, diciamo, italiana la parola libro, come se tutti i concetti collegati con il concetto di libro fossero tutti caratterizzati dalla sequenza di consonanti LBR. Da noi non è così, che noi abbiamo, cioè il verbo leggere è leggere altre consonanti rispetto alla parola libro, il verbo scrivere addirittura cose diverse. Invece nelle lingue semitiche la parola libro e le parole per leggere, scrivere, forse anche pagina, eccetera, sono tutte identificate da un'unica sequenza di consonanti. Quindi quando, diciamo, chi legge un testo in una lingua semitica può lui stesso interpolare le vocali, può mettere in mezzo, perché tanto capisce dal contesto se quell'LBR, mettiamo, significa è un sostantivo di un libro oppure è una posizione che significa un verbo, leggere, sono cose del genere. Questa cosa nelle lingue europee non va, e per questo i primi sistemi nelle lingue europee, come in altre lingue lontane dalle nostre, però i primi sistemi di scrittura fonetica non sono stati, diciamo, consonantici o qualcosa, ma sono stati sillabici. La prima idea è, i sistemi pittografici o ideografici simbolizzano con un segno abbastanza complicato intere parole o interi concetti. Quindi leggere, scrivere, casa, libro, cane, mangiare, dormire, picchiare, eccetera, hanno tutti, per esempio il cinese è fatto così, il cinese è la lingua, l'unica lingua che è rimasta di grande diffusione, tipo, ma storicamente anche la scrittura egiziana antica era fatta, diciamo così, anzi la scrittura egiziana antica era più chiaramente pittografica, perché conservava proprio come simboli scritti per le parole a volte proprio dei piccoli disegnini, cioè mentre nel, diciamo, cinese abbiamo uno stadio ulteriore, cioè magari storicamente l'origine di quei dei segni sarà stata, che ne so, per la parola casa forse era davvero una piccola casetta, poi a poco è diventato un insieme di segni astratti che si sa che indicano una casa per convenzione. Ma... Allora, in questo caso si preferisce parlare di sistema di scrittura ideografico piuttosto che pittografico, però l'origine è simile. E... I sistemi pittografici e ideografici hanno bisogno di un grande numero di segni per essere, di migliaia di segni, perché sono migliaia e migliaia, e anche poco, insomma, diciamo le parole di un lessico disponibile, concetti, eccetera. Poi, attenzione, il fatto che questi popoli non abbiano, che queste culture non, non abbiano elaborato scritture di tipo... appunto fonetico, non significa che la loro sintassi sia una sintassi più semplice, può essere complicata quanto la nostra, anche se basata su presupposti diversi, significa soltanto che per esempio non ci saranno o saranno più complicati dei segni grafici che simbolizzino la sintassi. Nelle lingue come quelle indo-europee, che sono lingue flessive, in cui per esempio i verbi hanno delle coniugazioni, dei modi, dei tempi, le parole, i sostantivi hanno dei numeri, dei generi, eccetera, eccetera, è semplice perché il concetto di, diciamo, perché i legami sintattici tra una parola e l'altra influiscono anche sulle singole parole. Nel cinese non è così, il cinese è una lingua... diciamo che si viene definita agglutinante e non flessiva, per cui costruisce la propria sintassi in gran parte attraverso la giusta posizione di suoni diversi. In genere le parole cinesi sono quasi tutte, in gran parte, monosillabe, non ci sono parole polisillabe. Allora questo però è chiaro che la cosa è ancora più complicata. Allora, l'obiezione, diciamo l'obiezione, la difficoltà più grossa che si ha comunque, no scusate, perché devo ancora mettere a fuoco un concetto che non so se ho spiegato a sufficienza. Allora, perché dico che l'apparizione delle scritture fonetiche, quelle, da prima quelle sillabiche, poi alcune delle lingue semitiche, quelle consonantiche, e alla fine arriva l'alfabeto. L'alfabeto che è stato inventato dai greci, ed è l'unico alfabeto che sia mai stato inventato al mondo, che tutti gli altri sono degli adattamenti dell'alfabeto greco. L'alfabeto latino è basato sul stesso principio, cambiano un po' le forme diciamo, i segni per le lettere, ma deriva da quello. L'alfabeto cirillico che usano in gran parte i popoli slavi, è stato inventato molto più tardi, nel IX-X secolo dopo Cristo, ed è un adattamento dell'alfabeto greco ad opera di due monaci, Cirillo e Metodio, che girarono per tutta quella zona lì diciamo, si servivano di questo strumento per scrivere i testi, ovviamente religiosi, cioè i Vangeli, per evangelizzare e convertire a poco al cristianesimo quelle popolazioni che non erano ancora state convertite a quasi 10 secoli di distanza dall'apparizione del cristianesimo nel Mediterraneo, quindi sapete che in 2-3 secoli fece fuori tutte le altre religioni precedenti con un atteggiamento molto imperialistico, aiutato da questo, va detto, da un imperatore che sapete che era Costantino, il quale per una serie di motivi suoi fece del cristianesimo una religione di Stato e non se lo sono più tolti dalle palle da 2000 da 1700 anni a questa anche, parte. Anche quello latino. Quello latino qua. Questo è tipo l'alfabeto cirillico, sì. L'alfabeto latino che era dalla prima, che era prima del... No, subito dopo il greco, ma prima della conversione, prima del cristianesimo. I latini erano una popolazione, perché poi quella del Lazio, più o meno, diciamo non molto versata nelle attività culturali, insomma. per cui loro importare, però erano stati influenzati da un popolo di cui non conosciamo quasi nulla, molto poco, che erano gli Etruschi, che stavano prima di loro. E gli Etruschi sono stati i primi ad essere costruiti un alfabeto che in realtà è molto più simile graficamente a quello greco. Però gli Etruschi sono un enigma, non è chiaro neppure se fossero, intanto non si sa che lingua parlassero, perché non ci sono rimasti praticamente dei testi tranne che nelle scrizioni tombali, quindi è un po' difficile riuscire a ricostruire da lì una lingua, non ci sono rimasti testi scritti come nella lingua greca e in quella, diciamo, latina. Poi la lingua latina è quella che ha dato origine a tutte le altre lingue dopo, e poi è stata a lungo, diciamo il latino è stato a lungo la lingua, diciamo, la lingua che ha unificato l'impero. Il greco ha unificato diciamo, la parte orientale delle culture mediterranee anche all'epoca dell'impero romano, e poi a lungo, poi c'è stata la separazione durante il Medioevo, per cui il greco è stato ignorato a lungo nell'Occidente, non si sapeva quando si sono separati i due imperi, l'impero romano d'Oriente e quello d'Occidente. La conoscenza della lingua greca si è persa a poco, quando poi nel 1400 i turchi conquistarono Costantinopoli e la fecero diventare Istanbul. Allora la fuga di molti greci da Costantinopoli, i greci arrivarono in Occidente e riportarono il greco, la conoscenza del greco, ma per tutto il Medioevo, per esempio Tommaso d'Aquino, che è il più grande filosofo cristiano, del Medioevo, nel 1200, ancora lui non sapeva il greco, quindi leggeva Platone e Aristotele nelle traduzioni latine, ma non avrebbe saputo leggere in greco. Quando arriva questa ondata, alla metà del 400, in Europa, nell'Europa occidentale, di esuli greci da Costantinopoli, allora la conoscenza del greco ritorna. Già nella prima metà del 400, personaggi come Pico della Mirandola o come Marsilio Ficino, che sono due umanisti italiani dell'epoca, l'Italia era uno dei centri della cultura europea per tutto il XV e XVI secolo, e loro due per esempio conoscevano il greco, sia Pico che Marsilio Ficino, ma erano delle eccezioni. Tutti gli altri non lo conoscevano, quindi era. E questo poi si portarono anche degli altri testi, quindi arrivano dei testi di Aristotele che non erano noti prima, per esempio la poetica di Aristotele non era nota, in realtà ne è rimasta soltanto metà. Il secondo libro sulla commedia si è perso, non si è trovato, il primo libro sulla tragedia è una roba che arriva qua in Europa nel 400. Allora, però l'alfabeto latino era già precedentemente, insomma, i romani, dicevo popolazione non molto versata nella cultura, in realtà assorbirono, a parte la cultura degli Etruschi, in gran parte la cultura dei Greci. Quando poi Roma conquista la Grecia nel primo secolo a.C., più o meno, nell'80-90 a.C., prima di beccarsi l'Egitto, insomma, a poco praticamente diciamo, i romani realizzano in maniera più stabile quello che aveva già fatto tre secoli prima Alessandro Magno, che ha conquistato tutta l'Europa, anzi Alessandro Magno si era spinto più al di là dei romani ad Oriente, perché era giunto sino in India. Però l'impero di Alessandro era durato molto poco, perché alla morte di Alessandro i suoi eredi, i suoi generali si erano litigati, si erano spartiti l'impero, quindi. Però era l'impero di Alessandro era servito per espandere la lingua greca in tutto il, come dire, Mediterraneo, e fare della cultura greca la cultura che unificava praticamente tutte le popolazioni, e questo nel periodo ellenistico, diciamo, terzo, secondo secolo, più o meno primo secolo avanti Cristo. Nel primo secolo a.C. però la potenza militare di Roma è già abbastanza forte, quindi si comincia a costruire quello che poi nel primo, secondo, terzo, dopo Cristo sarà il grande impero romano, che abbraccerà tutta quanta l'Europa, compresa l'Inghilterra, compresi i posti in cui Alessandro non era mai arrivato, per esempio l'Inghilterra, e anche in gran parte della Germania, perché Alessandro della Germania se n'era fottuto, o c'era arrivato in maniera marginale, non so dire che. E vabbè, insomma. Allora, torniamo a noi e alla questione degli alfabeti. Allora, il fatto che dei sistemi di segni che ricalcano la struttura della lingua parlata funzionino come elemento fondamentale di trasmissione di questa lingua parlata e quindi di possibile riflessione su di essa, complica le cose, complica perché ci fa pensare in qualche modo che intanto che questa scrittura sia appunto descrivibile come un sistema di segni, cioè sia semiotizzabile, e si crea una specie di analogia, non saprei come dire, tra questo insieme di tra questo modo di scrivere, tra questo modo di trasferire la lingua parlata su di un foglio di carta o su di una superficie bidimensionale, e quindi ci fa pensare, cioè, insomma, attraverso, per dirla in breve, attraverso la mediazione della scrittura sorge, come dire, l'idea che qualunque sistema di segni sia descrivibile come il sistema di segni della scrittura. E quindi che anche la pittura sia un insieme di segni più o meno fatto come la, diciamo, scrittura. Ora però, basta che ci riflettiamo un attimo e capiamo che c'è una differenza fondamentale tra la pittura in generale e la scrittura. Siccome la scrittura di qualunque tipo, sia pittografica, ideografica, fonetica e quindi sillabica, consonantica o alfabetica, in tutti i casi, quella scrittura istituisce una corrispondenza tra suoni singoli o insieme di suoni, parole, eccetera, eccetera. Quindi, in qualche modo, la cosa è più chiara con i sistemi sillabici o con l'alfabeto. Perché, diciamo, cancellare questa cosa. Diciamo, le pittografie o le ideografie hanno bisogno di migliaia di simboli, cioè di segni, di segni significanti. Le scritture sillabiche riducono di gran lunga questo numero, perché le sillabe di una lingua, capite che sono molto meno delle singole parole. Quindi già si comincia a pensare che le parole possono essere spezzate in unità significative, che sono le sillabe, e quindi diciamo che ce la capiamo all'incirca, passano al massimo 100 segni per una scrittura sillabica. Fate un po' i conti anche in italiano, insomma, quanto saranno le sillabe? Meno di 100 sicuramente. Alcune poi non sono, e sono alcune in cui c'è solo, sono più, c'è più di una consonante, insomma, diciamo un centinaio. Molte scritture sillabiche hanno appena 50-60 segni. Con le scritture consonantiche e con l'alfabeto, e poi l'alfabeto che è una derivazione delle scritture consonantiche, all'incirca ce la caviamo al massimo con 30 segni, ok? Ora però in tutti e tre i casi, a prescindere dal fatto che delle scritture pittografiche o ideografiche i segni sono migliaia, ma comunque sono un numero finito, sono un numero, cioè si psicoanalista, ci vuole un libro per esempio elencare tutti i segni della scrittura cinese, però dopo un po' si fa prima con le scritture sillabiche o con quelle consonantiche, ma è un numero finito di segni che si combinano in vario modo e danno una possibilità infinita di produzioni verbali, cioè di frasi che hanno un significato. In altri termini, come si può dire, prendendo a prestito un termine dalla matematica, si può dire i sistemi, le lingue naturali, sono un sistema discreto. Sono dei segni, ma sono in un numero finito, distinti l'uno dall'altro, facilmente distinguibili. Il suono B non è uguale al suono C, il suono P non è uguale al suono B. Poi dipende da una lingua all'altra, perché ci sono alcune per abitudine, noi per esempio distinguiamo tra dei suoni che spesso alcuni, per esempio, alcune popolazioni orientali non riescono a distinguere, per esempio, quella tra L ed R. Non perché sono scemi o perché sono pazzi, perché nella loro lingua non c'è questa distinzione. Le lingue sono totalmente arbitrarie, sono costruzioni arbitrarie e artificiali, cioè sono fatte, quindi non c'è nessun sistema, cioè il sistema dei cosiddetti tratti pertinenti, che vuol dire lo spagnolo, per esempio, non ha né un suono B chiaro come il nostro, né un suono V chiaro come il nostro, ma una labiale intermedia tra V e V, che è V, cavallo, loro scrivono AB, ma la lettera B si legge in spagnolo in maniera diversa da come si legge in italiano, perché c'è un suono che è diverso. Comunque, a prescindere, c'è una diversità nelle varie lingue, però ogni lingua ha il suo insieme di suoni codificati, sono in un numero finito. I segni grafici che corrispondono a questi suoni nell'alfabeto sono in un numero finito. Il combinarsi di questo piccolo numero finito di elementi molto ben distinti l'uno dall'altro dà luogo a un insieme di significati che sono quelli della lingua. Molto semplice. La scrittura è semiotizzabile in questo senso, perché è semiotizzabile la lingua, perché la lingua è un sistema di segni, la lingua parlata è un sistema di segni in questo modo, la lingua parlata è un sistema di segni discreto e quindi la scrittura, per poter andare dietro alla lingua parlata, in vario modo è sempre un sistema di segni discreto, no? Prendete un quadro qualunque. Prendete la Gioconda, o la Vergine delle Rocce, o la Signora con l'Ermellino, per stare a Leonardo, o prendete la Cena di Emmaus di Caravaggio, prendete un quadro qualunque. Dove sta lì? Dove sta in un quadro il sistema di segni discreti? Dove sta? C'è un sistema di segni discreto? Ci sono 50 segni, 100 segni, 1000 segni? Chiaramente distinguibili l'uno dall'altro, che combinati mi danno le figure? Potrebbe essere così, uno dice, nel mosaico, ma neanche nel mosaico è così, perché nel mosaico ci sono le tessere piccole, certo, che potrebbe dire, beh, questo è un tema di scheletro, che sono un tot, in una certa studio ci stanno solo un tot di... Ma il modo in cui io devo mettere insieme le tessere di colori diversi per ricreare una figura... Non è neanche esso discreto, sì, è la realizzazione discreta di un sistema. Qual è il contrario di discreto in matematica? Diciamo l'insieme discreto in matematica più famoso, quello più fondamentale, quello su cui è basata tutta la matematica, è l'insieme dei numeri naturali. È vero che i numeri naturali sono infiniti, ma sono infiniti, però sono un insieme di entità chiaramente distinte l'una dall'altra e elencabili. I numeri 0, vale, 0, speriamo che non ci sia, che lo 0 è una cosa complicata. Partiamo da 1, 2, 3, 4, 5, tra 1 e 2, che numeri ci sono? Naturali non ce n'è, tra 2 e 3 non c'è, quindi sono un insieme di, l'insieme dei numeri naturali, come si dice, o interi, se volete, è un insieme discreto. La matematica basa tutta la sua conoscenza su questo insieme discreto. Poi però, a poco, se la matematica vuole costruire delle cose un po' più complesse, per esempio se vuole costruire su di un piano cartesiano il grafico di certe funzioni, y uguale x al quadrato, che non è fatta così, diciamo che y uguale x al quadrato è fatto così, perché è una tavola. Per fare questo non bastano i numeri reali, perché tra 0 e 1 bisogna considerare tutti i numeri frazionari che sono intermedi tra 0 e 1, come tra 1 e 2, come tra 2 e 3, eccetera, eccetera, e poi non bastano neanche i numeri frazionari, che sono quegli strani numeri che non sono esprimibili per mezzo di frazioni, ma che corrispondono a delle figure geometriche, per esempio, quando voi volete calcolare la diagonale di un quadrato di lato 1, applicando la teorema di Pitagora, sapete che questa diagonale vi viene un numero che si chiama radice di 2. Radice di 2 non è un numero esprimibile con una frazione. Perché se fate se andate a calcolare il numero radice di 2, vi viene fuori una successione infinita di numeri decimali che non si ripetono mai uguali. Ora, una frazione invece è fatta in un modo più semplice. Una frazione corrisponde o a un numero decimale finito, o a un numero decimale infinito ma periodico. Okay. Per esempio, la frazione un mezzo è uguale a 0,5, punto. Dopo il 5 non c'è più niente, ci sono tanti zeri, 0, 0, 0, 0, non serve a cazzo. 0,5, questo è un numero decimale finito. Vabbè, voi dite c'è un terzo non è così, certo, un terzo è 0,3333, andate avanti all'infinito e trovate sempre 3. Quindi potete scrivere in un modo più semplice 0,3 periodico, mettete sopra una cosa, mettete tra parentesi. I numeri razionali quindi corrispondono a dei numeri decimali o finiti o infiniti periodici. Se un numero come la radice di 2 o come pi greco, che esprime il rapporto tra la lunghezza di una circonferenza e il suo diametro, o come il numero e, che è la base dei logaritmi naturali, tanti numeri, ce n'è un sacco, questi numeri qua sono tutti numeri decimali, illimitati, infiniti e non periodici. Ora, se voi andate a rappresentare i vostri numeri su di una retta, trovate che tra 0 e 1 ce n'è un'infinità di questi numeri. E questi numeri riempiono, sono fittissimamente tutto lo spazio che c'è tra 0 e 1. E per quanto voi prendiate due numeri, due punti sulla retta vicinissimi, potete sempre trovarne un terzo che ci sta in mezzo. Perché pigliate una lente di ingrandimento e i due numeri che erano vicini, o i due punti che erano vicini, vi sembreranno praticamente molto molto lontani. Quindi, siccome non c'è limite concettuale all'ingrandimento che potete fare, quindi vedete che un insieme discreto nella matematica ha generato un altro insieme che in matematica per opposizione quindi si chiama continuo. Questi numeri, cioè l'insieme dei numeri interi più i numeri decimali di ogni tipo, quindi quelli razionali, le frazioni, e quelli irrazionali, come la radice di 2, pi greco, eccetera, eccetera, si chiamano numeri reali. L'insieme dei numeri reali è un insieme continuo. Numeri reali. Numeri naturali. Allora, ci sono insiemi di segni che sono discreti, cioè che sono formati da un numero in genere finito, infinito potrebbe anche essere, ma purché ben distinti l'uno dall'altro, e elencabili, 1, 2, 3, 4, 5, e ci sono insieme di segni continui, cioè creabili in continuazione e non facilmente distinguibili l'uno diciamo dall'altro. Ora, mentre i segni che io traccio su una superficie di carta o di qualunque tipo per scrivere delle parole, per fare questo uso un insieme di segni discreto, ho le lettere, i segni che stanno per tutte le lettere dell'alfabeto italiano, i suoni della lingua italiana che sono 23, insomma, più qualcuno, se ci mettiamo anche la X, la W, la Y, eccetera, abbiamo 25, diciamo, 30 segni al massimo, insomma. Con 30 segni io posso scrivere tutte le parole in generale, quasi tutte le lingue indo-europee, con qualche accorgimento, cioè in tedesco avrò alcune lettere con l'umlaut, con le due, con la dire di sopra, in francese avrò alcuni accenti, insomma, comunque diciamo 30 segni, 35, quello che sia, insomma è un insieme discreto. La semiotica è nata dalla linguistica per analizzare insiemi discreti di segni, funziona perché il suo oggetto è un insieme discreto di segni, che siano i suoni o che siano i segni o che siano i segni grafici delle lettere non cambia nulla, siccome la lingua di per sé è un sistema discreto, la lingua naturale parlata, la scrittura che la simboleggia sulla carta deve essere anch'essa a sua volta un insieme discreto. Il disegno e la pittura non è un insieme discreto, è un insieme continuo. È possibile creare segni sempre nuovi, che nessuno ha mai fatto prima. E chi è difficile di distinguere tra loro e dire questo vuol dire quello, quell'altro vuol dire l'altro. La pittura non si costruisce come la lingua, partendo da un insieme di, no? Da un insieme di segni discreto, limitato, riconoscibile, chiaramente, poi combinando insieme. La lingua è basata, le lingue naturali sono basate su di un meccanismo combinatorio. È una combinatoria, io combino i singoli suoni e ottengo, che di per sé non significano nulla, questa è la grande idea, diciamo, la grande idea del sistema di espressione e di comunicazione umano, che non ha nessun'altra specie animale su questo pianeta. Molti hanno dei suoni, quasi tutti i mammiferi comunicano con dei suoni, ma ciò che loro comunicano, cioè ogni suono ha un significato. Quindi se io ho a disposizione 30 suoni, 40 suoni, 50 suoni, per esempio sono un gorilla, potrò dire al massimo 30, 40, 50 significati, perché non ho. Invece noi possiamo dirne quelli che vogliamo perché abbiamo, come dire, avuto l'idea geniale, non voi né noi né me, nessuno, qualcuno molte centinaia di miliardi di anni fa ha avuto l'idea geniale, o nessuno ha avuto chiaramente nessuna idea, insomma è uscito fuori così a poco, di non assegnare un significato ai singoli suoni, ma alla combinazione dei suoni. Quindi le lingue naturali e la scrittura di conseguenza sono sistemi basati su una combinatoria. La pittura non è basata su la pittura, il disegno, cioè non sono basati su di un sistema combinatorio. Ma uno potrebbe dire, però guarda che in realtà diciamo è vero però che sia la pittura che il linguaggio, adesso pittura dico in genere per dire qualunque attività che consista nel tracciare dei segni su una superficie in modo che assomiglino a qualche cosa che abbiamo già visto. Insomma. Bene, dice allora, si può dire che tutti e due sono sistemi simbolici? Perché simbolizzano qualcosa? Certo, sia la pittura che il linguaggio simbolizzano qualche cosa. Ma attenzione, I meccanismi in base ai quali simbolizzano qualche cosa sono completamente diversi. La pittura e il disegno rimandano alla, diciamo, realtà, al proprio, diciamo, referente, ciò a cui si riferiscono, per un meccanismo di somiglianza. Adesso lasciate perdere tutto ciò che è capitato nell'arte nell'ultimo secolo, lasciate perdere Mondrian, lasciate perdere l'astrattismo, lasciate perdere, e lasciate perdere anche l'arte araba e tutte le arti delle popolazioni che per una serie di motivi hanno avuto un divieto di tipo religioso, di tipo culturale a rappresentare la figura umana. Per esempio l'arte araba è fatta così. Quantomeno nell'Occidente, in Cina, in Persia, in tutte queste tradizioni, anche degli indiani d'America, dei nativi americani, insomma, in gran parte delle altre culture, in cui proibizioni del genere non c'erano, e in cui quindi si è sviluppata una attività di rappresentare oggetti visibili, naturali, animali, piante, esseri umani, fiumi, monti, eccetera, eccetera, attraverso dei segni, certo che sono segni, attraverso un sistema che... Questi segni, per poter funzionare, bisognava dire, questo è un fiume, questo è un villaggio, questo è il Monte Fuji. Se un giapponese, questo è il Monte Fuji perché c'è quel particolare profilo, visto da lontano, il Fujiyama è fatto così, bla bla bla, eccetera. L'altro, noi abbiamo il Monte Bianco, che ne so, abbiamo comunque, questo è un monte, questo è un fiume, questa è una persona, questo è uno stambecco, quello è un capriolo, quello è un albero. Se sono bravo posso dire che quello è una quercia, quello è un pioppo, quello è un faggio, benissimo. E io devo fare qualche cosa che, diciamo, somigli. Se l'immagine non somiglia al suo referente, non è una buona immagine. Quindi è vero che la pittura e il disegno simbolizzano la realtà, ma simbolizzano la realtà attraverso un meccanismo di somiglianza. Cioè, ci sono degli oggetti, sono delle illusioni, perché sono delle illusioni. Guarda, tra i primi. Proprio nella simbologia, tanti santi vengono rappresentati. Che complicazione, cazzo, va bene, certo, poi gli metti sopra una roba culturale, cioè, va bene, i quattro evangelisti, sai che se vedi un'aquila in un certo contesto, quello è l'aquila, chi è? San Marco, San Matteo, non mi ricordo, uno dei quattro evangelisti. Se vedi un'aquila, l'agnello è Gesù Cristo, ma deve essere un agnello. Se tu mi fai uno che ha smegliato un porco, nessuno dirà questo è Gesù, perché anzi mai se ne guarderebbe bene, perché sa che offende Gesù Cristo e arriva il prete e dà delle mazzate sulla testa. Deve somigliare. Poi sopra, tipo così, però di base, il meccanismo di base del rapporto di referenzialità tra un'immagine e l'oggetto a cui si riferisce è un rapporto di somiglianza. È un rapporto di somiglianza. Tra le prime, ragazzi, qui questa non è un libro senza figure, ma insomma, tra le primissime immagini che noi conosciamo ci sono quelle di alcune grotte tra la Francia e la Spagna, tra la Francia meridionale e la Spagna settentrionale, più o meno dell'alto paleolitico, del paleolitico superiore, quindi tra i 30 e i 40.000 anni fa, di cui le più buone sono le grotte di Lascaux e di Altamira, scoperte da poco più di un secolo, all'inizio del secolo, negli anni 40, addirittura alcune. Lascaux è la più famosa perché è un insieme di caverne collegate l'una con le altre, le cui pareti erano tutte più o meno fornosamente molto più lisce della media, e qualcuno ha dipinto su queste pareti una quantità enorme di figure, in genere di animali, a volte con qualche piccola anche stilizzata figura umana. C'è cervi, renne, bisonti, c'è anche un mammut, che sono un mammut duro, non mi ricordo, sono tutta una roba. Allora, uno dei più famosi è il bisonte. Il bisonte di Lascaux è un bisonte, cioè uno guarda e dice, cazzo, quello è un bisonte, eh? Non è che non cioè, ci vuole. E chiaramente è stato fatto appositamente, creazione geniale, perché non è che è così, voi sapete meglio di me, io se in qualunque modo provo a tracciare quattro dei segni su un foglio di carta non farò mai nulla che assomigli né ad un bisonte né a né, diciamo, nulla, perché ci vuole una abilità particolare, o bisogna avere studiato in modo particolare, cosa che io ho fatto a suo tempo, ma effettivamente non mi è servito a nulla, perché vuol dire che sono gnocco e duro da quel punto di vista, e quindi non so disegnare, non sono capace di fare, ma chi sa disegnare, chi ha appreso il modo di tracciare dei segni su una superficie, facendo in modo che, che richiamino alla mente di chi lo vede un certo oggetto, fa così. Quindi sono il modo che hanno le immagini di rappresentare qualcosa o simbolizzare qualcosa è un modo basato sulla somiglianza, sulla diciamo, somiglianza visiva proprio, no? L'oggetto rappresentato sulla superficie bidimensionale deve somigliare all'oggetto che vuole rappresentare, che vuole simboleggiare. Il linguaggio funziona così, funziona per somiglianza. La parola cane ha qualche somiglianza con l'animale cane? E evidentemente no. Quando io utilizzo i suoni e non dei segni grafici per simboleggiare, per rappresentare una realtà, non ho altra scelta che di usare un metodo arbitrario in cui è esclusa la somiglianza. Quindi la referenzialità del linguaggio alla realtà che vuole rappresentare o a cui si vuole riferire è una simbolicità o una relazione completamente astratta e arbitraria. Tanto è vero che ci sono lingue naturali diverse e il cane si chiama chien in francese o dog in inglese o hund in tedesco. Non c'è nessuna ragione per cui nessuna di queste parole, né cane, né dog, né hund, né chien, né perro in spagnolo, corrispondono, cioè somigliano a un cane, non gli somigliano affatto, non c'entrano nulla dal punto di vista della somiglianza col cane, perché non costruiscono immagini reali, costruiscono immagini mentali, certo. Se noi tutti parliamo l'italiano e io dico cane, nella vostra mente sorge una immagine un po' confusa, determinata di un cane, e saranno immagini un po' diverse, penso, nella testa di ognuno di noi in questo momento, quando diciamo cane, a che cosa pensiamo? Determinate dalla nostra storia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono immagini mentali, non sono immagini, sono cose che noi controlliamo, nessun altro le vede. Diciamo, non sono immagini visibili agli altri, non sono visibili neanche a noi in realtà, perché non le vediamo con gli occhi, le immaginiamo, cioè sono il frutto di un'attività mentale che abbiamo imparato a fare sin da quando eravamo bambini, abbiamo imparato nel primo anno di vita a collegare certe parole, certe sequenze di suoni con certi oggetti o con certe azioni o con certe persone o con certi stati o con certte condizioni, eh? E a poco a poco ed è sorprendente quanto in un così breve tempo, diciamo in genere entro il primo anno di vita il bambino comincia a pronunciare le prime parole già connesse tra loro e a costruire delle frasi semplici, e ci vogliono non più di altri 2 anni per avere. Già a 3 anni i bambini parlano con un linguaggio forse non uguale al nostro, ma già con proprietà, sanno mettere i verbi, le robe, i tempi, sanno applicare inconsapevolmente le regole della grammatica della lingua che hanno diciamo imparato, ma è questa è la ragione. Quindi adesso ci fermiamo qua un attimo, facciamo un po' di pausa perché io già sono stanco adesso, che e voi anche, poi prendiamo 10 minuti. Insomma, allora, siamo arrivati sinora a questa conclusione. Sia le immagini che le parole, che il linguaggio, sono dei sistemi di rappresentazione, o simbolici, o si può dire anche dei segni, però, dei sistemi di segni, ma lo sono in modo totalmente diverso. Almeno per due ragioni fondamentali, abbiamo detto. Primo, l'insieme dei segni linguistici è un insieme discreto, è basato sulla combinatoria. Quindi è facile, relativamente semplice, individuare le costituenti, gli elementi, diciamo, costituenti di base di questo insieme di segni e le regole attraverso i quali si connettono e si costruiscono per costruire dei segni. L'insieme dei segni, diciamo invece grafici, della pittura o dei, diciamo, disegni, è un insieme continuo, non è un insieme discreto. È una infinità di figure, di effetto, diciamo, di tracciamento su una superficie di alcune particolari materie che possono scrivere, diciamo il carbone, la grafite, il colore, quel cazzo che sia, insomma il pastello, l'acquarello, quello che è. Però ce n'erano anche da ben prima, insomma, già le pitture di Lascaux hanno in genere, come quelle di Altamira, hanno molte figure, hanno i contorni segnati con dei segni neri, che non si sa bene di cosa siano, sono stati analizzati, sono un pro colore, anche quelle pro, e poi ci sono campiture di colore, anche molto raffinate. Già. Allora, prima cosa, discreto continuo. Secondo, il sistema dei segni della lingua opera in modo arbitrario e non somigliante e astratto. Istituisce una relazione tra un ordine di oggetti reali o di azioni reali o di stati d'animo, di quello che sia, che si muovono nel mondo dell'esperienza umana e li rappresenta con insieme di segni in modo totalmente arbitrario, con insieme di suoni in modo totalmente arbitrario. Infatti che questi insiemi di suoni cambiano da lingua a lingua, mentre la pittura istituisce questa stessa corrispondenza tra oggetti, situazioni, fenomeni, eventi che avvengono nel mondo e insiemi di tratti tracciati su una superficie bidimensionale, ma con un principio di somiglianza. Ciò che traccio sulla superficie bidimensionale deve somigliare a quello che vuole rappresentare, altrimenti non rappresenterà nulla. Naturalmente, attenzione, secondo certi codici, gli aborigeni australiani sono, per esempio, si costruiscono delle bellissime, anche interessanti e molto utili per loro, mappe del territorio che attraversano, che a noi non vogliono dire assolutamente un cazzo. Noi vediamo delle strisce di colore diverse e non capiamo cosa vuol dire, mentre loro, quindi c'è un certo insieme di arbitrarietà, c'è anche nell'immagine, ma molto minore che siamo nel linguaggio. Una volta stabiliti certi canoni di base, una certa immagine, quelle immagini per l'aborigeno australiano somigliano al fiume che ha attraversato, alle cose, anche somigliano per lui, perché ha dei codici e non magari per noi, ma sono basate per lui sulla somiglianza. Quindi non sono totalmente separate le due cose, ma lo sono abbastanza da poter dire che in un caso, nel caso delle immagini, ci deve essere, diciamo pure, un codice, cioè un sistema di corrispondenze fisso tra significanti e significati, un codice basato sulla somiglianza. Nel caso delle lingue naturali, un codice basato sull'arbitrarietà. Ma non è, la scrittura non è anche un sistema convenzionale, dato per convenzionale? Sì, quando dico arbitrario, arbitrario vuol dire anche convenzionale. Certo, mi devo mettere d'accordo che l'insieme dei suoni K, A, N, E, per me e per te, per cui quelle parole chiare, significhi quell'animale a quattro zampe che segue gli uomini nei suoi accampamenti, si ciba dei suoi rifiuti, e gli tiene lontano altri animali più molesti. Quello è il cane. Certo, è convenzionale, c'è una convenzione. C'è una convenzione anche entro certi limiti nei sistemi pittorici. Abbiamo visto per esempio, diciamo, confrontando culture, diciamo, diverse. Ma la convenzionalità dei sistemi pittorici, dei sistemi grafici, è meno forte, cioè mantiene comunque in qualche modo un certo legame con una analogia visiva, con una sostanza. Gli oggetti rappresentati sulla superficie devono essere simili, riconoscibili come gli oggetti reali, cosa che non deve accadere con il linguaggio. Allora, queste due cose, continuo, discreto, somigliante, arbitrario, somiglianza, arbitrarietà, già ci fanno capire che se è possibile fare una semiotica dei segni grafici, non della scrittura in quanto tale, quella della scrittura segue quella della lingua, se vogliamo fare una semiotica della pittura o del disegno, se fossimo in grado di farla, questa sarebbe notevolmente diversa da quella del linguaggio naturale, perché dovrebbe analizzare un sistema di segni in cui il rapporto significante e significato è diverso da quello della lingua naturale, almeno per questi due motivi. Fine della prima parte, pausa.